Oggetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il Silvio Berlusconi di sempre, che dopo forse nemmeno 30 secondi era già pronto a farmi una battuta, in questo caso era il complimento per l'assistenza ricevuta, siccome so che voi piacciono questi aneddoti, ricevuta durante la notte da una delle mie infermiere di terapia intensiva, che si chiama Cristina, a cui appunto ha dato un'eventuale alternativa per andare a lavorare a Telesinco. È chiaro, care ascoltatrici, cari ascoltatori, come avete potuto ascoltare dal medico personale di Berlusconi, Zangrillo, che Berlusconi sta molto bene, ha avuto anche il tempo, appena ha aperto gli occhi, di fare i complimenti a una infermiera e di proporle di fare un lavoro, insomma, per una sua azienda. Quindi possiamo dire che, insomma, si avvia verso una pronta guarigione. Molto bene, e sulla politica torneremo per altri versi, perché stasera c'è un altro confronto tra due candidati di una delle sfide più attese, se non la sfida più attesa, vabbè, insieme a Milano, è quella di Roma. Su Sky TG24 ci sono Giachetti e Virginia Raggi, e come al solito, siccome abbiamo seguito anche le altre sfide, tra poco seguiremo anche questa e commenteremo questa di Roma. Intanto, da questo punto di vista, vi chiedo che cosa nelle due sfide più attese, quindi quella di Milano e quella di Roma, nei ballottaggi che ci saranno il 19 giugno, quale tema vorreste sentire nella sfida di Milano e nella sfida di Roma per convincervi a votare, anche se non siete di Milano o di Roma, così, diciamo, idealmente un candidato oppure l'altro? Quale tema vorreste sentire al centro del programma? Poi, tanto per non farci mancare mai nulla, c'è l'ennesimo femminicidio, un medico in una cittadina vicino Napoli che ha ucciso, un noto ortopedico che ha ucciso la moglie a colpi di pistola e poi si è tolto la vita. Qui si continuano a fare proclami, annunci anche da parte delle istituzioni, della politica, ma niente accade, ed è ormai vissuta veramente come una routine, come avere, che so, la forfora sulle spalle. Uno ce l'ha, vabbè, è una roba abbastanza normale, qualcuno ce l'ha, qualcuno non ce l'ha, nessuno ci fa più caso, eh? Veramente questa cosa è veramente sconcertante. Chiedo, come ho chiesto altre sere anche insieme alle ospiti che ci sono state qui a Effetto Notte, veramente agli uomini, che sono gli uomini che si devono interrogare su questa cosa, di fare una riflessione, di fare anche delle proposte, come aveva fatto un ascoltatore qualche sera fa, dicendo: portiamo un segno, qualcosa che evidenzi che noi non tolleriamo questa violenza, che siamo contro, che siamo uomini diversi. E per quanto riguarda invece la politica, sapere le vostre opinioni appunto su un tema che vorreste centrale nei ballottaggi più importanti, li sapete, i due canali per interagire qui a Effetto Notte sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggio WhatsApp, che è il 349-238-6666. Ma intanto direi di partire con il riassunto della giornata. Pubblica amministrazione stretta sui furbetti del cartellino e Renzi commenta: è finita la pacchia. Francia ad alta tensione, il primo ministro Valls dice che per sconfiggere il terrorismo islamico ci vorrà almeno una generazione e ammette che altri innocenti moriranno. Scontri intanto tra hooligans a Lille. L'omicidio di Giulio Regeni, i genitori del giovane ricercatore al Parlamento europeo dicono: l'Europa isoli l'Egitto e poi il governo italiano agisca. La scia infinita di femminicidi, lo avete appena sentito, a Palma Campania, vicino Napoli, un medico uccide la moglie e poi si lancia dal terzo piano. Le condizioni cliniche di Berlusconi: è lucido, sta bene, dice il suo medico, come prima avete ascoltato, che racconta anche appunto di complimenti fatti a un'infermiera. Domani esce dal reparto di terapia intensiva. Il caso D'Alema che scuote il PD, gelo fra renziani e sinistra, intanto contro la rovescia per i sindaci, confronto Raggi-Giachetti. Maltempo, allerta meteo, temporali e grandinate nel nord Italia. Euro 2016, la Slovacchia batte la Russia 2-1, scontri tra gli hooligans, Romania e Svizzera hanno pareggiato 1-1. Partiamo quindi dalle misure che riguardano la pubblica amministrazione, non solo licenziamenti sprint per i cosiddetti furbetti del cartellino, ma anche decreti per il restyling della conferenza dei servizi, per semplificare la pubblica amministrazione. Queste sono tra le principali novità uscite dal Consiglio dei Ministri, il primo blocco di provvedimenti destinati a portare a compimento la riforma Madia, definita dal governo sin dall'inizio come una vera e propria rivoluzione. E Renzi commenta: per quanto riguarda i furbetti del cartellino, è finita la pacchia. Chi viene beccato a timbrare il cartellino e ad andarsene vede finalmente finita la pacchia. Non c'è una lunga trafila, noi l'abbiamo chiamata una norma di buonsenso, nel senso che non è che puoi dire: scusa, mi è scappato il badge, è andato da solo a timbrare il cartellino, io non me ne sono accorto e poi sono uscito. Chi fa questo sta truffando lo Stato. sta truffando il comune, sta truffando la regione, sta truffando l'ASL, e quindi nelle modalità che il ministro Madia potrà illustrarvi siamo finalmente al punto in cui prendi e vai a casa. C'è il licenziamento in modo, lasciatemelo dire, cattivo ma giusto. Cattivo ma giusto. Intanto nel Casertano, proprio a causa di episodi di assenteismo, è stato chiesto oggi il rinvio a giudizio per 79 persone. Sono stati arrestati 9 dipendenti dell'ASL. Palestra, shopping, secondo lavoro. Via via vengono scoperti altri furbetti del cartellino. Oggi nel Casertano chiesto il rinvio a giudizio di 79 persone, tra le quali 78 dipendenti del comune di Orta di Atella, accusati di truffa aggravata e danni dello Stato per numerosi episodi di assenteismo. E arrestati all'alba dai carabinieri 9 dipendenti, tra cui 5 dirigenti della ASL di Caserta, in servizio nel distretto 13 di Maddaloni, ora ai domiciliari. Altri 7 sospesi. Truffa, false attestazioni, certificati in concorso con le aggravanti di aver commesso il fatto a danno di un ente pubblico, il capitano dei carabinieri Pasquale Pucca della compagnia di Maddaloni. Timbravano all'orario previsto, dopodiché si allontanavano subito dal posto di lavoro per le loro commissioni private, chi accompagnare i figli a scuola, chi andare a fare la spesa, alcuni degli indagati addirittura per fare jogging. Il periodo di indagine è di circa 2 mesi. Ottobre-dicembre 2015. Come danno andiamo dai 450 ai 3.400 euro. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. La difficile situazione della Francia adesso, tra l'incubo terrorismo, gli hooligans, le manifestazioni contro la riforma del lavoro, ora basta, è l'appello del primo ministro francese ai sindacati, avverte potremmo avere altre vittime del terrorismo. J'ai dit que nous étions en guerre, que cette guerre allait être l'affaire d'une génération. Questa guerra durerà una generazione, altri innocenti perderanno la vita, mi si accuserà di generare ancora più ansia, ma la realtà è questa. Manuel Valls, primo ministro francese, parla così dopo l'omicidio della coppia di poliziotti che ha riportato il terrore a Parigi. Le sue parole nel giorno in cui l'antiterrorismo viene allertato di nuovi imminenti attentati in Francia e Belgio. Foreign fighters sarebbero infatti partiti dalla Siria 10 giorni fa, diretti in Europa, starebbero pianificando attacchi in gruppi di 2. L'OCAM, l'organo belga che valuta il livello di minaccia, non nega l'informazione ma afferma che dovrà essere esaminata in modo più approfondito. A riguardo, le autorità di Parigi restano molto caute, rivela invece un funzionario francese alla Associated Press. Quanto all'altro motivo di preoccupazione in Francia, quello delle violenze durante i cortei di protesta, il presidente Hollande annuncia il divieto a manifestare in caso non venga garantita la protezione di beni e persone. In mattinata, lo stesso primo ministro Valls aveva esortato la CGT, il principale sindacato francese, a non organizzare più a Parigi manifestazioni in grado di sfociare in violenze. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come se non bastasse, gli scontri tra i violenti a margine della partita, la polizia che ha usato gas lacrimogeni per disperdere hooligans inglesi e russi a Lille in seguito a tafferugli scoppiati al termine della partita tra Russia e Slovacchia, ha vinto la Slovacchia. Poi torneremo comunque a parlare di questa situazione veramente complicata di questi giorni per la Francia. E siamo all'omicidio di Giulio Regeni, genitori del giovane ricercatore torturato e ucciso in Egitto. Nel loro intervento alla Commissione diritti umani al Parlamento europeo hanno chiesto che l'Europa isoli l'Egitto e che il governo italiano agisca. Confermo, ha detto la mamma di Giulio Regeni, la nostra richiesta al governo italiano di mantenere il richiamo del nostro ambasciatore Cantini, resti a casa, ma è importante, dice, spiegare all'opinione pubblica il perché e cosa sta succedendo in Egitto. E siamo alla scia infinita di femminicidi. A Palma Campania, vicino Napoli, un medico, un noto ortopedico, Aniello Lamberti, 59 anni, ha ucciso la moglie, Angelina Fusco, 56 anni, insegnante delle scuole medie, sparandole alla testa, poi si è tolto la vita. Ha ucciso la moglie 56enne a colpi d'arma da fuoco e si è gettato dal balcone al terzo piano della sua abitazione. È accaduto a Palma Campania, in provincia di Napoli. Aniello Lamberti, medico 59enne in servizio al vicino ospedale di Nola, era molto stimato in città. L'omicidio-suicidio sarebbe avvenuto dopo una violenta lite tra i coniugi. Una coppia molto conosciuta a Palma Campania è in crisi da diversi anni. Al momento della tragedia i due erano soli in casa. I due figli, entrambi maggiorenni, vivono fuori Napoli. Ad avvisare i carabinieri il fratello di Lamberti, che ha ritrovato il corpo nel cortile interno della palazzina. L'ortopedico era in pigiama, ai piedi ancora le pantofole. La pistola con cui ha ucciso la moglie, un insegnante di scuola media, non risulta legalmente detenuta. Si indaga sulla vita privata della coppia per risalire alle cause del folle gesto dell'uomo. Alessandra Iannuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda le condizioni cliniche di Berlusconi, l'avete sentito, procede bene il decorso dopo l'operazione al cuore di ieri. Domattina l'ex premier uscirà dal reparto di terapia intensiva e potrà ricominciare a camminare, come ha spiegato Alberto Zangrillo, suo medico personale, anche raccontando questo aneddoto, insomma, dei complimenti che avrebbe fatto appena sveglio a un'infermiera. E passiamo invece al PD, che è partito ad alta tensione per una frase che Massimo D'Alema avrebbe detto contro Renzi in vista dei ballottaggi. Che due non si amassero si è sempre saputo da quando alla Leopolda Matteo Renzi lanciò la sfida alla leadership del PD proprio criticando Massimo D'Alema, ma da qui al fatto che quest'ultimo, pur di far cadere il premier, sia disposto a votare la candidata 5 Stelle a Roma, Virginia Raggi, ce ne corre. L'ex premier, secondo una ricostruzione di Repubblica, avrebbe annunciato anche l'adesione ai comitati per il no al referendum. La tesi è semplice: se Renzi perde a Roma e Milano dovrà tenerne conto. A quel punto nel partito si aprirebbe la strada per il rinnovamento della segreteria, magari teleguidato proprio da Massimo D'Alema. Del resto fu proprio il suo governo a cadere dopo le regionali del 2000, quando prevalse il centrodestra. Daniela Reggiani, portavoce di D'Alema, smentisce l'articolo. Frasi mai pronunciate, ricostruzione fantasiosa. E lui dice: non mi occupo di Roma. Di Roma no, ma forse di Palazzo Chigi sì. Tutto questo proprio alla vigilia del confronto televisivo tra il candidato PD Roberto Giachetti e Virginia Raggi. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E fa ancora discutere la polemica sulla Consob lanciata da Radio 24. Che due non si amassero si è sempre saputo da quando alla Leopolda Matteo Renzi lanciò la sfida alla leadership del PD proprio criticando Massimo D'Alema, ma da qui al fatto che quest'ultimo, pur di far cadere il premier, sia disposto a votare la candidata 5 Stelle a Roma, Virginia Raggi, ce ne corre. L'ex premier, secondo una ricostruzione di Repubblica, avrebbe annunciato anche... Questo è il servizio di prima, invece adesso parliamo appunto della polemica sulla Consob, dicevo, lanciata da Radio 24. Una polemica, quella sulla Consob e sui suoi vertici, che arriva in Parlamento. È un'autorità indipendente per legge, ribadisce durante il question time alla Camera il ministro dell'economia Padoan. L'obbligo per gli intermediari di fornire informazioni adeguate sui prodotti finanziari è una misura fondamentale per la tutela degli investitori. La normativa italiana in materia è in linea con quella dell'Unione Europea. Un chiarimento quello del titolare del Tesoro per allontanare le voci di un esecutivo in pressing sul presidente della Consob Vegas per un passo indietro. Il tutto dopo l'intervento del ministro dello sviluppo economico Calenda a Radio 24. Calenda aveva parlato di errori gravi dopo un servizio di report su presunte lacune in termini di trasparenza della Consob nella vicenda delle quattro banche e dei risparmiatori penalizzati. Il viceministro all'economia Zanetti era andato anche oltre, facendo capire tra le righe che le dimissioni di Vegas erano auspicabili. In difesa di Vegas il ministro Alfano, con lui oggi Brunetta di Forza Italia, che dice: Calenda e Zanetti chiedano scusa. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi all'estero, la strage di Orlando negli Stati Uniti. Ci sono ancora indagini ad ampio raggio per capire la follia del killer. Intanto Renzi, presidente del Consiglio italiano, ha rinnovato l'affetto agli Stati Uniti e alla comunità LGBT, cioè lesbica, gay, bisessuale, transessuale, americana in particolare. E poi pare che adesso ci sia davvero, anzi è iniziata da diverso tempo, questa gara di solidarietà da tutto il mondo, in particolare dagli Stati Uniti e da Orlando stesso, dalla città di Orlando, perché il sindaco ha fatto in modo che possano avere le 49 vittime un posto particolare nel cimitero di Orlando, e dovrebbe provvedere la stessa città anche alle spese funerarie. E adesso, per chiudere, parliamo di calcio. Euro 2016, con le partite già finite, Russia-Slovacchia, la Slovacchia ha battuto la Russia 2-1, poi ci sono stati anche gli scontri tra gli hooligans, e poi Romania-Svizzera invece pareggio 1-1, ed è invece in corso la partita della Francia, Francia-Albania, per il momento 0-0, poi ci aggiorneremo man mano. Intanto i vostri messaggi al 349-238-6666 o la pagina Facebook di Effetto Notte. Vi sto chiedendo quale dovrebbe essere secondo voi un tema centrale nelle due sfide principali ai ballottaggi, quella di Roma e di Milano, che vi convincerebbe, anche se non siete elettori di quelle città, a votare per l'uno o l'altro candidato. Intanto ringrazio Cosimo da Pistoia per la simpatia, anche Stefano con i loro complimenti. E però invece, per quanto riguarda appunto i temi, dice questo ascoltatore che non si firma, al 349-238-6666, un tema principale dovrebbe essere un programma, è l'ambiente. E poi anche sul femminicidio, qualcuno scrive: contro il femminicidio serve una rivoluzione culturale a partire dalla televisione, in cui si veda che l'uomo che picchia la donna è un impotente, frustrato e sfigato, per continuare nelle scuole a insegnare ai figli a denunciare i propri genitori che maltrattano le mamme, di concludere nel dibattito pubblico e nell'applicazione di una giustizia ferrea e senza pietà. peccato che non ci sia una firma. Continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Quale tema vorreste sentire, visto che tra poco seguiremo anche il confronto Sky TG24 tra Giachetti e Virginia, i temi centrali che vorreste sentire forti di una campagna elettorale a Milano o a Roma, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, dopo pochissimo tempo abbiamo aggiornato chi viaggia, adesso vi aggiorno invece su le altre notizie, sul tema che tratteremo tra poco, come sempre iniziamo allora con un ospite e poi continuate i vostri messaggi al 349-238-6666, vi sto chiedendo quale potrebbe essere un tema, grazie anche Francesco da Milano, un sacco di complimenti stasera, mandate anche sui temi quali vorreste sentire per Roma e Milano, al di là che siate elettori di quelle città, dei temi forti per convincervi a votare, ma come mai finora nelle varie sedi istituzionali, sto leggendo un messaggio, chi ha vinto ha governato e questo non vale per i 5 Stelle che dovrebbero fare un referendum e non consultare i propri elettori a proposito di Olimpiadi, e questo è un tema che sapete che da un po' è entrato prepotentemente nella campagna elettorale di Roma. Rita dice: io chiederei asili nido, è inutile fare tanti discorsi sul lavoro delle donne, fatti ci vogliono. E poi altri messaggi, adesso vedo anche che c'è un problema con le agenzie, ma leggo almeno il titolo a proposito di Brexit e l'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, si vota, sapete, il 23 giugno referendum. La presidente della banca, la governatrice della banca centrale americana Yellen dice può pesare un'eventuale uscita sull'economia e la finanza del mondo. Questo è l'allarme. Intanto vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata. Pubblica amministrazione stretta sui furbetti del cartellino e Renzi commenta: è finita la pacchia. Francia ad alta tensione, il primo ministro Valls dice che per sconfiggere il terrorismo islamico ci vorrà almeno una generazione e ammette che altri innocenti moriranno. Scontro intanto tra hooligans a Lille. L'omicidio di Giulio Regeni, i genitori del giovane ricercatore al Parlamento europeo dicono l'Europa isoli l'Egitto e il governo italiano agisca. La scia infinita di femminicidi a Palma Campania vicino a Napoli, un medico uccide la moglie e poi si lancia dal terzo piano. Le condizioni cliniche di Berlusconi, è lucido e sta bene, dice il suo medico personale. Il caso D'Alema scuote il PD, gelo fra renziani e la minoranza Dem, intanto conto la rovescia per i sindaci, confronto Raggi Giachetti. La mia tesi sulle amministrative la conoscete? Si tratta di un voto che è un voto importante per tutti i motivi che sappiamo, ma che è un voto che vede dei cittadini scegliersi il sindaco. Io faccio in bocca al lupo ai candidati, ma faccio soprattutto in sede istituzionale, devo farlo per tutti allo stesso modo, nel senso che qui in sede istituzionale devo confermare che noi lavoreremo con tutti i sindaci come lavoriamo con tutti i sindaci di tutti i colori. Insomma, Renzi è tornato su questa polemica con mettere le mani avanti, sta facendo da diverso tempo, dicendo che queste elezioni comunali non hanno un valore nazionale, cioè non possono avere ripercussioni sulla politica nazionale, non sono consenso o meno sul governo, ma riguardano i sindaci, riguardano le città dove si vota. Comunque ci sono città molto importanti che vanno al ballottaggio, le principali città, Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna, vanno tutte al ballottaggio, poi anche altre città, ma queste sono le sfide più attese. In particolare, lo sapete, per il 19 giugno sono attesi Milano e Roma. Giorni fa abbiamo seguito il confronto all'americana, quello insomma con i due candidati uno accanto all'altro, con domande dirette del giornalista, risposte cronometrate in breve tempo e poi un appello finale agli elettori. Abbiamo seguito Milano, stasera c'è Roma su Sky TG24 con Roberto Giachetti del PD e Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle. Sentiamo il giornalista che domanda sta facendo. Popolare. Poi dopo i lavori sono diventati 16 vani, è stata costruita anche una piscina, lei dice tutto regolare, benissimo, però in tutto sono 660 metri quadrati con piscina e anche se non sbaglio con 5 ingressi diversi. Allora, noi avevamo pensato all'inizio che nei due casaletti ci andava, non so, la domenica a fare la bracciata, invece qua ci sembra, non so, una casa per ferie, un agriturismo. Cosa ha lei a Subiaco? A un minuto. Sta riferendo a Giachetti. Un minuto è complicato, nel senso che lei ha fatto una illustrazione per la quale ci vorrebbero 10 minuti. Comunque glielo dico molto semplicemente, sono casaletti, sono due fabbricati di 160 metri quadri l'uno. La differenza è che, come sono stati presi in fotografia, uno è stato demolito e ricostruito ed era su due piani, invece è venuto lungo una striscia di 5 stanze. Sono 5 stanze, tutto assolutamente regolare, tant'è che il fatto che ha aperto la discussione su questa vicenda ha dovuto scrivere e correggere il giorno dopo che era tutto assolutamente autorizzato, e sono esattamente due, valutateli, casali, casaletti, quello che volete, due fabbricati di 160 metri quadri. Il resto dei metri quadri di cui lei parla sono i locali che servono per il motore della piscina, per la parte idro... Quindi sono tutte cose... Scusate, quindi è una casa privata, non è che pensa di aprire un agriturismo? No, a parte il fatto, guardi, a parte il fatto che io trovo singolare che lei sia interessata... Io non ho nessuna intenzione di aprire un agriturismo, anche perché lei dovrebbe sapere che l'agriturismo per aprirlo bisogna avere, diciamo, bisogna essere coltivatori. Quindi io non sono un coltivatore, ho dei terreni agricoli, non so, faccio l'olio per me, però voglio dirle molto semplicemente che io, se poi decido... di mettere cinque bagni in una stanza, non credo che questo... Quindi cominciano a tirare fuori possibili ombre dei candidati, insomma, in questo modo ha risposto Giachetti. Sentiamo invece cosa chiede a Virginia Raggi. Nella sua dichiarazione dei redditi disse, sicuro davanti a cotanta ricchezza, è ovvio, prima di lei aveva parlato Marchini, aveva dichiarato un milione di euro, diciamo che tutti avremmo sfigurato, però lei dichiarò tra i 20 e i 25 mila euro, se non mi sbaglio lordi, giusto? Parliamo di cifra lorda. Sì. Oh, 20-25 mila euro, parliamo di 1000 euro netti al mese, ma se lei fa l'avvocato e fa il consigliere comunale, guadagna solo 1000 euro? Cioè, a me sembra un po' particolare, diciamo, come dichiarazione. Ce lo vuole chiarire anche lei, magari sul netto, quanto guadagna davvero? Guardi, quando io ho fatto il consigliere, quindi nei 3 anni precedenti, lavorando circa 10 ore al giorno, mi rimaneva ben poco tempo per fare l'avvocato, quindi ho smesso completamente di lavorare. Credo che nel 2015 avrò forse messo una fattura, peraltro per una prestazione vecchia, quindi è evidente che tutti quindi i miei compensi derivavano, ma non ce la facevo, tutti i miei compensi derivavano dall'attività di consigliere, che è remunerato con gettone di presenza, con un limite di 19 gettoni al mese, peraltro per 11 mesi, perché il 12esimo, che sarebbe agosto, in realtà beneficia di una ripartizione sugli 11 mesi. Quindi dal consiglio comunale prendeva circa 1000-1100 euro, diciamo, al sì, massimo? Sì, all'anno sì, perché sono 2400 lordi per 11 mesi, con la mia aliquota veniva circa 1100 euro. Bene, così è chiarita questa cosa. Quindi queste sono, diciamo, domande, ho beccato le domande personali sui 7:30 dei due candidati. Ne parliamo con la nostra Elisabetta Fiorito, in diretta da Roma, che naturalmente ha seguito la campagna, cara Elisabetta. Come commentare? Fra l'altro adesso c'è anche praticamente arrivata come un macigno questa polemica sul caso D'Alema, no? Che D'Alema, ex presidente del Consiglio, avrebbe detto, secondo indiscrezioni di Repubblica, avrebbe detto: io pur di far fuori Renzi voto Virginia Raggi, lui però smentisce. Allora, buonasera a tutti quanti e tutti i radioascoltatori. E intanto, allora, andiamo subito su D'Alema e sul caso all'interno del PD, no? Abbiamo questa polemica che c'è da sempre tra D'Alema e Renzi. Ricordiamo che Renzi alla Leopolda disse che appunto con D'Alema non si sarebbe mai più vinto le elezioni. E quindi D'Alema se l'è legata un po' al dito, cioè il vecchio partito e il nuovo partito. Quindi D'Alema è chiaro che sia un avversario interno a Matteo Renzi. Lui oggi, D'Alema stesso, ha smentito di aver detto delle frasi così tranchant nei confronti del Premier. È chiaro che ci sta e che c'è da sempre una lotta interna. Oggi anche abbiamo visto l'ex Premier Enrico Letta contro quello che dice il Premier sulla Brexit, però Enrico Letta è sempre molto filo europeista, sarà un problema per l'Italia, mentre Matteo Renzi dice vabbè, vediamo, perché poi insomma se esce la Gran Bretagna magari lui va a Bruxelles e dice guardate usciamo pure noi, per dire, no? Sono proprio due visioni opposte della politica. D'Alema ha smentito, ha detto io non ho mai detto certe cose, non penso a Roma, ha detto io non penso a Roma, però forse a Palazzo Chigi sì, insomma i maligni sanno benissimo che comunque lui farà di tutto per ostacolare il Premier Matteo Renzi, ma questo è sempre stato un problema all'interno del PD, quindi è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Guardiamo invece quello che sta avvenendo nel ballottaggio Raggi Giachetti. Allora, due note di colore intanto, no? Questa bellissima cornice del Campidoglio. Giachetti si è fatto la barba, perché sempre con un po'. Beh, no, un pochino incolta c'è sempre, la vedo. Sì, però un pochino la Raggi si è coperta un po' le orecchie, perché leggermente sventola, ma sempre una bella ragazza. Vabbè, queste sono stupidaggini. Hanno subito, diciamo così, battibeccato sulle Olimpiadi, sappiamo che Giachetti a favore, la Raggi è contraria, e poi abbiamo sentito poi forse quello che è il clou della serata, cioè quello che hanno loro dichiarato la Raggi come consigliera e invece Giachetti su questa casa di Subiaco. Insomma, quello che appare sempre più evidente è che si va verso delle campagne politiche sino americano, dove il privato conta, cioè se tutti candidi, tu che sei consigliere comunale come Cristina Raggi, devi dirmi perché se avvocato mi dichiari 25.000 euro lordi, che un po' le dice io non ho avuto tempo, vabbè, però insomma è un po' dubbia come cosa, come Giachetti, sta casa di Subiaco, 5 stanze, vabbè, ma insomma, anche lì. Scusa, Betta, proviamo a sentire. I candidati devono essere trasparenti, questo è quello che vuole il popolo, vuole la gente che vota, e quindi è importante che sia così. Sentiamo se vengono fuori dei temi, vediamo se... Oggi si parla comunque molto di multe, addirittura di inasprire le sanzioni. Il punto non è inasprire le sanzioni, il punto è applicarle. Perché vede, Roma, se lei vede, è piena di cartacce, di cicche, di immondizia, e non è che le multe non quindi ci siano. Rifiuti, il problema la sporcizia, è che le sanzioni conseguenti vengono sanzionate perché non ci sono controllori per strada. Allora noi, parlando con i dipendenti AMA, di fatto abbiamo avuto conferma che molti di loro, soprattutto quelli che lavorano negli uffici, sono disponibili a convertirsi in controllori e andare per strada a fare controlli. Lei comunque aumenterebbe la multa. La multa, lo ricordiamo, per una carta così è sui 50 euro per le 5 è inutile. Aumentare le multe, vanno applicate. Chiaro. Paradossalmente, guardi, è meglio abbassarla e renderla immediatamente pagabile. Giachetti. Le multe si devono ovviamente fare, dopodiché dobbiamo anche far capire, io mi auguro che se divento sindaco di essere in grado di farlo, di far capire alla città che deve cambiare completamente la linea di orizzonte. Lei lo sa che oltre questo gesto che lei ha fatto, ogni giorno a Roma non si raccolgono 300 tonnellate di rifiuti perché ci sono 3.000 cittadini che parcheggiano la macchina davanti al cassonetto. Allora è del tutto evidente che l'amministrazione può fare tutto, possiamo riorganizzare l'AMA, ma tutta la città, tutti i cittadini romani devono capire che bisogna cambiare. Chiaro. Ecco, infatti vedo anche messaggi di questo ascoltatore o ascoltatrice. Vediamo di aprire questo WhatsApp che dice: per me è molto importante la gestione delle periferie e l'attenzione all'ambiente, con particolare riferimento al traffico e alla raccolta differenziata. Ferdi da Carpi, così scrive Betta Fiorito. Come andrà questo? Allora, se, diciamo, c'è un certo stacco che ha avuto la Virginia Raggi al primo turno, no? Il 5 giugno, che allora, Giachetti deve recuperare. Non possiamo assolutamente dire quello che sono i sondaggi, anche quelli un po' clandestini che girano questi giorni. Diciamo che Virginia Raggi è molto favorita. Questo si può dire, ecco, chiaro, questo. Palese. Sì, no, nel senso che noi ci dobbiamo assolutamente tenere a quella che è la par condicio e dire quello che sono i problemi. Allora, intanto, dire che Virginia Raggi ha detto che indirà un referendum sulle Olimpiadi e che chiederà alla Chiesa l'ICI, e qui mi viene un po' da ridere. Perché riuscirà, secondo te? Guarda, è impossibile. Noi purtroppo romani, io sono giornalista parlamentare, quindi sono poi romana proprio di origine, eccetera. Sappiamo che questa è una battaglia persa, però se ci riesce, per carità di Dio, come si dice? Chi dice mai, che, insomma? Va. No, e c'è anche lo stesso Papa Francesco che ha detto che quelli che non sono conventi, quelli che sono alberghi di fatto, dovrebbero pagare l'ICI. Quindi a scopo perché, di lucro. Certo, questa è praticamente una cosa incalcolabile, però vediamo se lei ci riuscirà. Il problema secondo me un pochino si gioca sulle Olimpiadi, e poi in questo sia la Raggi che Giachetti sono assolutamente coincidenti su quello che è veramente la pubblica amministrazione e la gestione ordinaria della pubblica amministrazione, perché in questa città non è che non funziona più nulla, devo dire che il commissario Tronca ha fatto grandi cose, però quello che è il problema dei rifiuti, della raccolta differenziata. Noi abbiamo ancora i cassonetti puzzolenti per strada. So che al nord, mi giunge che oltre sulla linea gotica non ci sono più, capito? Da noi. E io, questa cosa, quando vengo a Milano e vengo in redazione a Radio 24, mi sembra di vivere in un altro mondo. Prendo la metropolitana tutta ordinata, tutta pinta, vado a Roma e ci sono tutti quanti i vagoni fatti da quelli che sono i graffiti writers, molto carini, però poi alla fine dà l'idea di un abbandono totale. Ecco, quindi c'è molto da fare in questa città. Io do un in bocca al lupo alla Raggi e a Giachetti, vediamo che ci riesce. Vinca il migliore. Grazie Betta Fiorito da Roma. Ciao Elisabetta. Grazie a voi. Ciao. Ciao, grazie. E i vostri messaggi ancora al 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Note a proposito del tema centrale che vorreste sentire in queste campagne elettorali per i ballottaggi, soprattutto Milano e Roma, insomma le sfide più attese. Dice Max Taxi, ripristino della legalità, e poi fa un complimento, lo ringrazio. E ancora altri messaggi. Silvana da Genova, ciao Roberto, il mio desiderio, più agenti, controllo ai problemi, stranieri, paure e disagi. Sebastiano, voterei il sindaco col pugno d'acciaio contro la microcriminalità. Basta questo, il resto viene da sé. E così altri messaggi. Voi continuate con le vostre opinioni, con i temi che vorreste sentire centrali in queste campagne elettorali, visto che mancano 4 giorni ai ballottaggi, soprattutto appunto le città più importanti, Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, ma ovunque si debba votare tra due candidati. Voi continuate con i temi che avete in testa e che ritenete più importanti. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte lo sapete che siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice. Da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte, perché vi dico sempre che da qualsiasi angolazione, da ogni latitudine ricevo i vostri messaggi. Ci sono poi quelli che aderiscono alla pagina Facebook di Effetto Notte, del Lussemburgo, dagli Stati Uniti, dalla Francia. E continuate con i vostri messaggi sulla pagina appunto del programma, pagina Effetto Notte Facebook, e poi al 349-238-6666 per i WhatsApp e per gli SMS. L'argomento che vi ho lanciato questa sera, anche a proposito del fatto che siamo a 4 giorni dai ballottaggi, poi che c'è il confronto che in parte abbiamo seguito su Sky TG24 tra i due candidati a sindaco di Roma, quindi Roberto Giachetti per il PD e Virginia Raggi per il Movimento 5 Stelle, quali sono i temi che vorreste sentire, anche se non abitate a Roma o a Milano, quindi le città principali, per convincervi a votare. C'è Simone che dice, per esempio, vediamo se lo ritrovo, no, Maurizia, lavoro, hanno chiuso migliaia di aziende da 2010 ad oggi, posti di lavoro persi che la città, che ultimamente si è scoperta turistica, non riesce a riassorbire. Quindi si riferisce a Roma. Mimmo dice, civiltà, mobilità sostenibile, ambiente, sicurezza, trasparenza sui bilanci, ossia si dovrebbe avere conto di come vanno spesi i nostri soldi, soprattutto onestà, questi temi che ritiene centrali, per esempio Mimmo. Poi Duilio dice, progetti veri per la mobilità a Roma. Cristiano, bisogna ascoltare la gente, gli ultimi sfruttati, spingere verso un'integrazione autentica, estirpare o almeno lottare contro la malapianta corruttiva, valorizzare i quartieri e le periferie. Ilaria dice, Roberta, viene da piangere per questa città bellissima, si riferisce a Roma, è alla deriva totale, parlano e questa Roma è bellissima, una bellissima donna stuprata, eccetera eccetera. Continuate con i vostri messaggi, intanto mentre sto per ricordarvi le notizie più importanti della giornata, se non avete acceso puntualmente alle 21, tra poco passeremo, vi dico già, a un altro argomento. Pubblica amministrazione stretta dal Consiglio dei Ministri sui furbetti del cartellino, con Renzi che commenta adesso la pacchia è finita. Francia ad alta tensione, ne parleremo tra pochissimo. L'omicidio di Giulio Regeni, con i genitori del giovane ricercatore che al Parlamento europeo hanno detto l'Europa isoli l'Egitto e hanno chiesto al governo italiano di agire. La scia infinita di femminicidi a Palma, Campania, vicino Napoli, un medico ha ucciso la moglie a colpi di pistola e poi si è lanciato dal terzo piano. Le condizioni cliniche di Berlusconi, abbiamo sentito dal medico personale che è lucido, sta bene e domani esce dal reparto di terapia intensiva. E poi il caso D'Alema che scuote il PD, gelo fra renziani e la minoranza Dem, intanto conto la rovescia per i sindaci, confronto Raggi Giachetti. L'affaire d'une génération, ça va être long. Aujourd'hui, l'un des meilleurs spécialistes de la radicalisation de notre pays, Farhat Khachkorkavan, dit qu'il faudra 10 à 20 ans pour éradiquer cette menace permanente. C'est dans les colonnes du D'autres Parisien, ce matin. Innocents perdront leur vie. C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire, molto difficile da dire, così deve ammettere. Avete sentito il primo ministro francese Valls, che oggi ha detto in questa intervista che in Francia i maggiori specialisti del radicalismo islamico hanno detto che ci vorranno tra i 10 e i 20 anni per riuscire a combattere il terrorismo islamico e soprattutto, dice Valls, purtroppo ci saranno ancora vittime innocenti. Quindi dopo Charlie Hebdo, dopo le stragi di Parigi del 13 novembre, dopo l'uccisione due giorni fa della coppia di poliziotti da parte di uno jihadista, insomma, questo appuntamento di Euro 2016, che doveva essere un grande evento per la Francia, che è il paese ospitante, una grande festa, invece si sta trasformando per vari versi in un incubo. Cioè la Francia sta vivendo giorni difficilissimi, appunto, oltre all'incubo del terrorismo c'è l'allarme, tra l'altro, della polizia belga, che dice potrebbero essere in arrivo in Francia attentatori dalla Siria, anche se su questo le autorità parigine sono abbastanza caute. Poi ci sono le manifestazioni di protesta con accenti anche durissimi contro la riforma del lavoro, sapete, gli scontri con le incursioni violente, gli scioperi che creano disagi, e poi tanto perché non ce n'è abbastanza, questo manipolo di ominidi violenti che vanno sotto il nome di hooligans. Ne voglio parlare con Marco Gervasoni, che è docente di storia comparata dei sistemi politici all'Università LUIS. Buonasera, professor Gervasoni. Buonasera. Che Francia è questa di questi giorni, professore? È una Francia un po' stretta in una morsa, che non ha previsto una serie di cose, che non sa come tenere le cose sotto controllo? È un problema di sicurezza, di debolezza? Sì, sono tutte queste cose assieme, nel senso che naturalmente c'è un problema di debolezza del potere politico e anche del governo e della stessa figura cardine della Repubblica, cioè il Presidente, che ha quote di popolarità bassissime, mai registrate da un Presidente della Repubblica. Quindi tutto questo, diciamo, favorisce sia le spinte a fenomeni che sono apparentemente diverse, sia le spinte agli scioperi anche molto violenti, sia il fenomeno degli hooligan, che è un problema di ordine pubblico che il governo fa fatica a gestire. E quindi Hollande si trova in questa situazione. Potrebbe essere il fare, per esempio, per quanto riguarda le durissime proteste contro la riforma del lavoro, potrebbe essere una piccola soluzione, trovare un compromesso, visto che gli scontri sono così forti? E poi, secondo lei, è davvero la maggioranza dei francesi che è contro questa riforma? Perché leggevo sondaggi nei giorni scorsi di 7 su 10 francesi che sono contrari a questa specie di Jobs Act francese. E che cosa dovrebbe fare il governo, secondo lei? Andare col pugno duro? Allora, innanzitutto diciamo che questa riforma è già stata, rispetto al progetto originario, è già stata molto edulcorata. Già all'inizio non è che fosse una riforma veramente incisiva, quindi è già stata edulcorata, un compromesso è già stato fatto, e Hollande e Valls non possono permettersi di ritirare questa riforma, sarebbe l'ennesimo smacco, l'ennesima prova di debolezza. E infatti, diciamo, la soluzione è quella di accentuare l'elemento repressivo. Adesso non solo l'opposizione, non solo uno dei probabili candidati l'anno prossimo per il centrodestra, cioè la Juppé, ha chiesto di vietare le manifestazioni, ma anche alcuni esponenti del governo. C'è anche da dire che queste manifestazioni sono tanto più violente quanto più i sindacati sono estremamente minoritari nel paese. Da sempre la Francia ha un tasso di sindacalizzazione molto basso, però in questi ultimi anni veramente estremamente basso. Quindi diciamo, come è anche difficile trovare gli interlocutori adatti quando questi interlocutori sono presi da spinte, diciamo, estremiste, proprio perché hanno una loro debolezza. Sto riferendo ai sindacati, no? Quindi tutto questo diventa anche molto difficile. Inoltre c'è da aggiungere che, per come è congegnato il sistema della Quinta Repubblica, questo sia che quando governa il centrodestra sia quando governa la sinistra, ci sono i meccanismi di dialogo sociale, sono poco oliati, diciamo così, quindi c'è anche una difficoltà in questo senso. Quindi questo per quanto riguarda, appunto, il braccio di ferro tra governo, manifestanti, sindacati, la riforma del lavoro, eccetera. Quanto al terrorismo, la Francia, secondo lei, è un paese impreparato, per quanto, appunto, quando si tratta di lupi solitari ormai è abbastanza chiaro, lo dicono gli analisti, gli osservatori, gli esperti, che insomma diventa estremamente difficile combatterlo, no? Perché può spuntare da qualsiasi parte. Lo stesso primo ministro Valls ha detto una cosa molto preoccupante, no? Per i francesi stessi. ci vorranno anni per combattere questo tipo di terrorismo, ci saranno altre vittime innocenti. Sì, naturalmente questo è un problema che non riguarda solo la Francia. Oggi è uscito un articolo su Foreign Affairs dove un analista, diciamo, statunitense rifaceva notare che allo stato attuale è impossibile riuscire a mettere in piedi una strategia per combattere il terrorismo. Detto questo, la Francia ha due particolarità rispetto per esempio agli Stati Uniti o rispetto ad altri paesi. Innanzitutto che l'integralismo islamico è radicato all'interno dei francesi stessi, cioè ci sono intere aree delle banlieue e così che sono, diciamo, delle Molenbeek francesi, tanto per citare l'esempio belga. Quindi e questo si innesta su un problema, quello delle banlieue, che è un problema sociale, ma non solo sociale, antropologico, identitario, che nelle prime émeute nelle banlieue si sono avute alle fine degli anni 70, poi naturalmente la cosa si è aggravata, il che non vuol dire naturalmente che il problema del terrorismo sia esclusivamente un problema che abbia origini sociali, dal degrado. Questa spiegazione è una spiegazione a mio avviso riduttiva. Però magari aggrava. Però aggrava e sicuramente in Francia, rispetto a paesi, diciamo l'Italia che non ha la stessa storia coloniale. C'è un terreno più fertile forse, c'è un terreno più fertile. Poi c'è un problema chiaramente tecnico di impreparazione, perché Charlie Hebdo, dove furono utilizzati migliaia di poliziotti per prendere tre persone, diciamo così, ma anche poi con le stragi di novembre si rivela una certa impreparazione. Impreparazione, diciamo così, quindi, e debolezza della Francia in questo momento, in un periodo. Sì, di una polizia che non era però, con tutto il rispetto, la polizia belga, cioè la tradizione della polizia francese è una tradizione molto importante. Eppure, ma sono stati fatti moltissimi tagli anche alle forze di polizia dalla presidenza precedente. E questi sono un po' i risultati. Grazie professor Marco Gervasoni della LUIS, dell'Università LUIS. Grazie professore, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Robby 55 scrive a proposito dei temi che vorrebbe sentire centrali in queste campagne elettorali prima dei ballottaggi: mobilità, inquinamento, gestione dei rifiuti, mai una parola, solo buche da riparare, miseri candidati. Questa è il suo giudizio tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, dove continuano ad arrivare i vostri messaggi. Intanto vi ricordo le notizie principali a proposito della pubblica amministrazione: c'è stata questa stretta dal Consiglio dei Ministri sui furbetti del cartellino e Renzi che ha commentato: così è finita la pacchia. Francia ad alta tensione, ne abbiamo appena parlato. L'omicidio di Giulio Regeni, i genitori del giovane ricercatore al Parlamento europeo chiedono che l'Italia agisca e che l'Europa isoli l'Egitto. La scia infinita di femminicidi a Palma Campania, vicino Napoli, un medico uccide la moglie e poi si lancia nel vuoto. Le condizioni cliniche di Berlusconi: è lucido e sta bene, ha detto il suo medico personale. Per il caso D'Alema che scuote il PD, gelo fra renziani e minoranza Dem. Europa 24 notte. Si tengono in questi giorni a Bruxelles le giornate europee dello sviluppo. Si tratterà di capire come e se la cooperazione potrà aiutare l'Europa a gestire anche il flusso di migranti che premia le sue frontiere, come vorrebbe il Presidente del Consiglio Renzi, e anche se e come questo progetto può essere efficace. Per noi, per capirlo, c'è a Bruxelles la nostra Valentina Furlanetto. Valentina, che cosa è emerso quindi? Sì, buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. Come dicevi, queste giornate, le European Development Days, sono organizzate innanzitutto dalla Commissione europea e riuniscono qui a Bruxelles in questi tre giorni i principali interlocutori della cooperazione internazionale, dall'ONU. Questa mattina c'è stato Ban Ki-moon, il segretario generale delle Nazioni Unite, e poi i vertici della Banca Mondiale, chiaramente le agenzie ONU e le organizzazioni non governative e le istituzioni europee, che oggi erano rappresentate dall'alto rappresentante per la politica estera Mogherini e dal commissario Avramopoulos per le migrazioni e il commissario per lo sviluppo Never Mimica. Proprio questi ultimi due sembra che dovranno collaborare prossimamente, cercare una formula, no? Per arginare, come dicevi, le migrazioni, ossia per mettere la cooperazione al servizio della gestione dei flussi migratori. In questa direzione, come tu ricordavi, sta andando anche la proposta italiana, quella del cosiddetto Migration Compact. Addirittura Ban Ki-moon stamattina, il segretario generale dell'ONU, ha detto che lui pensa addirittura a un global compact basato sulla responsabilità condivisa di tutti i paesi. Chiaramente questo ha anche dei costi, no Roberta? E già è difficile mettere il bilancio non solo comunitario ma dei paesi a disposizione. Ti faccio un esempio: alla Valletta in novembre c'è stato questo meeting, era stato creato questo Trust Fund per l'Africa. La Commissione europea aveva deciso di erogare 1,8 miliardi, ma fino ad oggi la Commissione europea è riuscita ad avere dai paesi soltanto 81 milioni. Quindi il problema è sempre quello, Compact si ripropone questo problema, chiaramente. Ci sono poi altri ordini di problemi. Qui si discute tanto di cooperazione in questi giorni, quindi di quello che i paesi ricchi fanno per i paesi in via di sviluppo in termini di aiuti allo sviluppo. E da molte parti viene criticato il fatto che, ad esempio, nell'Africa subsahariana, nel Sahel, 25 anni di politiche per lo sviluppo europee, in cui l'Europa è il più grande donatore al mondo con 68 miliardi di euro l'anno, in realtà non hanno sostanzialmente cambiato la situazione. Perché allora il Migration Compact dovrebbe frenare l'avanzata? E poi ci sono ovviamente tanti altri ordini di problemi di cui magari parleremo nei prossimi giorni. Intanto Valentina Furlanetto, inviata a Bruxelles, buon lavoro. Ciao Valentina. Grazie, ciao Roberto. Ciao. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ritorniamo invece alla Francia per Euro 2016 con Dario Ricci. Monsieur Dario, non so se ci puoi dare buone notizie a parte gli aggiornamenti delle partite, però abbiamo visto di nuovo gli hooligans, questi ominidi violenti, no? Che rovinano il clima, oltre già le difficoltà generali. Sì, proprio ragione Roberta, sono a Montpellier, tra l'altro, c'è il ritiro degli azzurri generale dell'Italia, sì, poi adesso ti aggiorno rapidamente anche sulla marcia d'avvicinamento alla partita decisiva con la Svezia di venerdì a Tolosa, ma insomma hooligans protagonisti a Lille, dove tra l'altro noi giocheremo il 22 giugno contro l'Irlanda a chiudere la nostra prima fase, ancora una volta in azione dopo la sconfitta della Russia contro la Slovacchia per 2-1, ecco, se non ce la faranno gli hooligans, possiamo dire così, a buttare fuori la Russia da questo europeo, ce la sta facendo da sola la squadra russa, perché comunque questa sconfitta pesa parecchio in classifica. Nelle altre gare del pomeriggio 1-1 tra Romagna e Svizzera, e a sorpresa la Francia sta attualmente pareggiando 0-0, ancora 0-0 con l'Albania. Marsiglia, risultato sorprendente, ecco. Grazie Dario Ricci dalla Francia, poi vedremo se ci sorprenderemo anche nei prossimi giorni, speriamo in senso positivo. Adesso vi devo lasciare perché poi ci sentiamo brevemente alle 22:00.